Vendo tutto di Matteo Caccia. Einstein sosteneva di poter vivere con solo quattro oggetti: un violino, una penna, un orologio e una giacca di pelle. Tutte cose regalategli dalla moglie. Violino, penna e orologio io li ho già venduti. Vado avanti e non mi fermo. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo quattro anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato anche a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo il corso di tennis. Laurearmi nel più breve tempo possibile. Condurre, anche solo per una volta, l'edizione del TG1 delle 20. Gettarmi col paracadute. Cantare a squarciagola ad un concerto dei Muse. Ballare la lap dance in un locale super affollato. Fare un'intera prova di rally come navigatore. Viaggiare in una macchina cabrio rossa sola per l'Europa. Vedere sorridere più spesso mio fratello grande. Comprare ai miei un biglietto per una crociera. Assistere all'elezione di un presidente del Consiglio italiano di colore. Innamorarmi senza soffrire. Comprare un attico con terrazza nei pressi di Villa Medici. È un incanto, Roma, vista da lì. Era da qualche giorno che non mandavo in onda una lista dei desideri di un ascoltatore e sono ripartito oggi con la lista di Flora. Flora è un'ascoltatrice, una ragazza pugliese che adesso vive a Roma. È una persona che dai messaggi che mi ha scritto mi racconta di avere cambiato un po' di cose nella sua vita in questo periodo, ed è in particolar modo per una delle cose che ha cambiato nella sua vita che oggi ho voluto leggere la lista dei desideri di Flora. È proprio il suo primo desiderio: laurearmi nel più breve tempo possibile. Perché oggi è di questo che si parla. Oggi si parla del desiderio di imparare di nuovo da capo cose nuove, però da grandi, da adulti, non da bambini. Sono le 16:10 minuti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e il programma si chiama Vendo Tutto. 800 24 0024 per chiamarmi, 349-238-6666 per gli sms, anche se credo che oggi sms funzionano anche gli sms. Oh, grazie a Pietro Lacorte, è sempre lui l'uomo del destino. Dicevo 800 24 0024. Sapete quando vi trovate lì? Perché da piccoli è facile, cioè da piccoli siamo pieni di maestri, no? Abbiamo gli insegnanti a scuola, abbiamo l'allenatore al calcio, abbiamo magari il maestro di tennis, magari il maestro di canto, quello che ci insegna la chitarra, e per lo più sono maestri che noi non è che ci cerchiamo. A 6 anni, a 10 anni, un po' te li impongono, no? I genitori: ma fai questo, fai questo, impara a nuotare, impara ad arrampicare, che so, impara a sciare. Quindi un maestro te lo danno, e anche se tu non lo vuoi te lo trovi. Poi però passano gli anni, no? Arrivi a 20, più di 20, di solito dai 25 in su, dai 30 ai 40 è proprio una bellezza. Ti rendi conto che ci sono delle cose che forse proprio vuoi imparare, magari reimpararle, oppure riprendere da dove avevi smesso. E ti cerchi tu i maestri, ti cerchi gli insegnanti di lingue, ti cerchi il maestro per il corso di teatro, oppure quello di yoga, come la nostra Laura Faggin, che lo fa una volta a settimana. Raddoppiamo, Laura, che una mi sembra un po' poco. Oppure, che so, un insegnante per imparare a suonare uno strumento, o dei professori nuovi per l'università da frequentare a 40 anni. 800 24 0024 per raccontarmi della voglia di imparare che avete ripreso, e quindi del maestro, dell'insegnante che vi siete trovati in età adulta. Ad esempio, prima su Facebook Andrea mi scriveva: mi è tornata la voglia di iscrivermi all'università. Luca: ieri ho ripreso in mano la chitarra e mi sono rimesso a suonarla. 800 24 0024. A me è capitato con il tennis da piccolo, come a molti era successo. L'ho raccontato, credo, quando ho venduto la racchetta da tennis. Avevo il maestro che mi era stato dato, perché a scuola c'era quello che insegnava a tutti. Poi sono arrivato a 32 anni e ho detto: ma sai cosa, che io vorrei riprovare. Ho trovato questo maestro straordinario di cui vi racconterò oggi e di cui purtroppo vendo anche l'ultima lezione. Prima però di partire voglio ringraziare Joel, credo si chiami Joel, che è un'ascoltatrice e che sulla pagina Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto ha postato un pezzo che parla proprio del tennis, tratto da Infinite Jest di David Foster Wallace. Avete presente questo libro di 1400 pagine infinito? E lui parla del tennis in questo modo: il vero avversario, la frontiera che include, è il giocatore stesso. C'è sempre e solo l'io là fuori, sul campo, da incontrare, combattere, costringere a venire a patti. Il ragazzo dall'altro lato della rete, lui non è il nemico, è più il partner nella danza. Le infinite radici della bellezza del tennis sono autocompetitive. È tragico, è triste, è caotico, è delizioso. E tutta la vita è così. I limiti che ci animano sono dentro di noi, devono essere uccisi e compianti all'infinito. Questo era David Foster Wallace. Ringrazio ancora Joel per l'aver pubblicato su Facebook. E ora arriviamo al mio corso di tennis in vendita. Volete sapere qualcosa di più? Andate sul sito radio24.it. Volete sentire la storia? Eccola qua. Il corso di tennis. Lezione di tennis singola, durata della lezione 55 minuti. Istruttore della Scuola Tennis Milano, associato alla WISP, Lega Nazionale Tennis. Il metodo di insegnamento si basa sulla dimostrazione semplice ed intuitiva dei singoli colpi per un veloce approccio allo sport. La lezione è da svolgersi a Milano. Perfetta per chi vuole iniziare a giocare o perfezionare la propria tecnica, ma soprattutto per chi cerca un vero maestro. Valore commerciale 40 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Alla fine, per capire che tipo di persona sei, basta osservare che sport ti piace. A me piacciono gli sport individuali. Per diversi motivi. Primo, perché visto il mio spirito agonistico, non c'è nessun altro su cui possa scaricare la responsabilità tranne me. Secondo, perché data la mia innata pigrizia, essere sempre al centro del gioco mi aiuta a non perdere la concentrazione. Terzo, perché considerata la mia incapacità organizzativa, è più facile fare le cose da solo che non in gruppo. Il tennis è la quintessenza degli sport individuali. E come tutti questi sport, la componente psicologica è enorme. A differenza delle discipline in cui lotti contro te stesso, però, non giochi solo contro la tua testa, ma contro la testa dell'avversario. Giochi contro la sua capacità di riconoscere i tuoi punti deboli, di sfruttarli. Il mio punto debole, inutile negarlo, è il rovescio. Non c'è niente da fare, mi pare un gesto del tutto innaturale. Tanto il diritto sembra un movimento istintivo, quanto il rovescio mi pare troppo meccanico. Durante il mio corso di tennis sono stato talmente ossessionato dal rovescio e dalla mia incapacità che me lo sognavo pure di notte. I sogni erano estremamente realistici e anche uno studente fuori corso di psicologia sarebbe riuscito a interpretarli, visto che, pur di non usare il rovescio, nel sogno diventavo ambidestro. E quando la palla arrivava alla mia destra facevo il dritto con la mano destra, ma quando mi arrivava sulla sinistra io cambiavo di mano la racchetta e facevo il dritto con la mano sinistra. Era un rifiuto totale di quel gesto e se l'ho superato devo ringraziare Flavio, che non è il mio analista, è il mio maestro di tennis. Flavio è una persona intelligente e un maestro eccezionale. È nato in Argentina da genitori italiani, ha 48 anni e gioca a tennis da quando ne ha 12. È preciso, attento e comprensivo. Non urla, non si arrabbia, non si annoia mai. Mi fa notare i miei errori e ripete come correggerli se necessario all'infinito. Lo fa con questo splendido accento argentino, che allunga alcune parole e ne tronca altre, come una musica che non è mai stonata. Insomma, lui è uno dei migliori maestri che abbia mai avuto. E non rinuncerei mai alla mia ultima lezione se non fosse che uno dei primi oggetti che ho venduto è stata proprio la mia racchetta da tennis. E ora mi trovo con una lezione ancora da fare, ma senza più la racchetta per farla. E quindi vedo anche la mia ultima lezione con lui. Como consuelo hay que tirarse un balazo. Argentina, Argentina, cortala con el fracaso. Hay que romper el sistema que te condujo al ocaso. Argentina, Argentina, siempre tuviste complejos al sentirte muy distinta de los sudacas de lejos. Allora, io gioco la palla a te, sì, tu me la giochi a me. Io ti gioco la volea, tu me la giochi a me. La palla successiva che ti gioco andrà sul tuo rovescio, se ti gioco il rovescio sui bolini. Questo era Flavio, il mio maestro di tennis. A lui devo, oltre al perfezionamento del mio rovescio, anche la consapevolezza dell'utilità di un maestro. Perché quando si è piccoli siamo pieni di maestri senza nemmeno cercarli, mentre da adulti facciamo fatica a trovare il maestro che fa per noi. Da bambino ero convinto che a me i maestri non servissero, non perché fossi un genio, tutt'altro. È solo che mi sembrava di non essere programmato per ricevere informazioni. La mia maestra elementare era fantastica, il mio allenatore di calcio era in gamba, pure quello di sci. Perfino il maestro di chitarra mi pareva straordinario. Eppure mi sembrava che tutti intorno a me capissero, tranne me. Era come se il mio metodo di apprendimento non fosse sintonizzato sulla stessa frequenza del loro metodo di insegnamento. Niente, a un certo punto mi ero convinto che avrei dovuto fare da solo, che solo leggendo i libri, provando a fare gli esercizi per conto mio, avrei imparato a scrivere, avrei imparato a sciare, a giocare al pallone, a fare tutto. Poi in un modo o nell'altro sono cresciuto e mi sono accorto non solo che per fare bene le cose bisogna sempre conoscerne i fondamentali, ma che serve qualcuno che te li trasmetta. Perché non è questione di nozioni, di numeri, di gesti e informazioni che ti vengono trasmesse. Il maestro è una persona che ti sprona, ti fa capire, ma soprattutto che capisce. Capisce chi sei, come stai e perché fai quello che fai. Uno che non solo ti corregge gli errori, ma che intuisce il motivo per cui li fai. E poi te lo trasmette. È un po' come quando si sbaglia la posizione dei piedi oppure un accordo di chitarra e lui ti sa dire perché è uscita quella schifezza invece che una volée o un bel do maggiore, ad esempio. L'errore che faccio e che Flavio capisce sempre è soprattutto mentale. E ogni volta che me lo corregge mi sorprende, perché non è una questione tecnica o atletica, cioè non è visibile. È quasi una sensazione. È la memoria del colpo precedente. Mi spiego. Quando faccio una cosa giusta, un bel dritto ad esempio, mi ci accomodo. Ma se immediatamente dopo devo fare qualcosa di diverso, è come se mi stessi crogiolando ancora nella perfezione del movimento di prima. E quindi quello che esce è una ciofeca. Ecco perché lui mi dice di dimenticare le cose buone appena fatte e concentrarmi sempre su quelle che stanno per succedere. Perché ogni palla che giochi è sempre la prima palla. Nonostante tutto però, nonostante il mio maestro di tennis e il mio rovescio ancora da correggere, l'ultima lezione del mio corso è in vendita. Il suo valore è di 40 euro, la base d'asta qui sono 99 centesimi. Per raccontarmi invece le vostre passioni da adulti, 800 24 0024. Questo è Vendo Tutto, la radio invece è Radio 24 e invece mi scrive Luis, mi dice vorrei imparare di nuovo come si corteggia una donna e poi ancora, e i problemi con la sciatica? Ah no, questa deve essere di Essere Benessere, mi sa che non è mia, era di Nicoletta Carbone. 800 24 0024, sentiamo quelli che invece hanno ancora una passione adulta per cui hanno voluto imparare delle cose da grandi, e partiamo con Elisabetta da Milano. Pronto Elisabetta? Ciao, complimenti per la trasmissione. Anche a te Elisabetta, guarda, sei veramente allora, veramente in gamba. Aspetta, non ti ho ancora detto che cosa. Vabbè, mi portavo avanti. Va bene, vai sulla fiducia. Brava, dimmi qual è quella cosa per cui stai rimparando. Allora, io ho 45 anni, mi sono iscritta quest'anno a un corso del comune, ma ho lezioni per parte di canto. Ah, i corsi del comune di Milano sono fantastici, ma fantastici, il mio maestro è bravissimo. E fanno lezioni private anche? E tu, se ti iscrivi in fretta, che loro hanno, non so se proprio del comune, comunque è una cosa pubblica, sì, io sì, l'ho saputo da una mia amica, civica, e credo. Quindi, civica, ecco, bravo, e niente, è meraviglioso perché lui suona il piano, mi fa gorgheggiare, io sto imparando adesso. Scusami, era la prima volta, Elisabetta, che tu provavi a cantare seriamente, intendo dire? Assolutamente, ho sempre solo cantato sotto la doccia, adesso... Ma cioè, quindi che cosa canti con lui, oltre a fare i gorgheggi, a fare i vocalizzi, eccetera, eccetera? Cantate delle canzoni proprio? Cantiamo delle canzoni tipo, ma del 1500. Ah sì? Divertenti. Tipo i sonetti messi in musica? Sì. Ma cantamene un pezzo, Elisabetta, ce l'hai un pezzo da cantarmi? E adesso non so, per esempio, c'è quel amor che attendi... Amor, che fai? Però adesso sono fredda. No, infatti devi scaldare la voce. Sono Elisabetta, fredda. Magari ci sentiamo domani, così te la scaldi e domani me la fai tutta, ok? Ok. Grazie ciao. Mille, ciao, buona giornata. Andiamo a Roma da Raffaele. Pronto? Raffaele. Pronto, buonasera. Buonasera a te, buonasera. Raffaele, come stai? Faccio anch'io i compiti. Io sto benissimo, spero anche di te. Beh, guarda, anch'io sto decisamente bene. Senti, dimmi qual è la cosa che stai imparando. A quanti anni, Raffaele? Quanti anni hai? 44 anni, vivo a Roma e un giorno io sono avvocato, ma lavoro per un ente. Uh-huh. Avevo trovato a terra, buttato in uno scaffale, un vecchio manuale del professore Gazzoni. Che è un professore di che cosa? Studiarlo. È un professore che insegna cosa, Raffaele? È un professore famoso di diritto privato. Ah, è strano perché sembra che ci sia il satellite con il telefono, per cui mi sa che ci risentiamo con calma un'altra volta. Io intanto mi segno manuale di diritto privato, Raffaele, che anche se era un avvocato qualcosa ancora doveva impararla. Grazie Raffaele, andiamo a Bergamo da Diana. Pronto? Ciao Diana, sento come se fossi in Italia e non a Vancouver. Che cosa stai imparando alla veneranda età di? 23 anni, sono ancora piuttosto giovane, però dopo 5 anni di ragioneria diplomata, ottimi voti, mi sono riscritta quest'anno a un corso serale di parrucchiere, una triennale, un altro diploma perché voglio seguire una mia passione. Ah, ma quindi tu non vuoi fare la parrucchiera da grande? Sì. Ah, quindi tu hai fatto ragioneria, sì, giusto? Infatti, ragioneria. E stai già lavorando anche? Sì, sì, sì, sono qua in studio che sto registrando fatture adesso e lavoro. Scusami, in questo momento sei in ufficio? Sì, sì. Ma e puoi ascoltare la radio e soprattutto puoi fare telefonate? Sono sola, quindi posso al momento. E che fatture stai registrando, scusami? No, vabbè, non sto registrando fatture, sto sistemando delle contabilità per i bilanci. Ma di cosa? Fammi capire di cosa stiamo parlando. Sto controllando i pagamenti di fornitori. Ma non lo vuoi dire, ok, lo posso capire. Va bene. Senti, sì. Però diciamo che stai a 23 anni, diciamo, sei ancora giovane, però hai voglia di cambiare e di seguire la passione da parrucchiera. Ti auguro ogni bene, Diana. Buona Grazie giornata. Mille. Ciao. Buona giornata, ciao. Maurizio da Milano. Buongiorno, buon pomeriggio. Anche a te, Maurizio. 32 anni. 32 anni. Rispetto ai 23, forse, insomma. Sì, è più difficile. Sì, sì, sì, sì. E cosa stai facendo? Un corso d'arrampicata, anche se non è il caso di chiamarlo un corso fai da te. Perché? Perché il mio insegnante non è propriamente un insegnante, ecco, insomma, è più, molto più giovane, però lo fa da tanti anni. Ma per cui... e dove lo fai? È in montagna. Non in palestra. Anche in palestra, in montagna, insomma. Senti, Maurizio, al volo dimmi a che grado sei arrivato. Ah, ma che non so chi ti ha suggerito questa domanda. Quinto, credo. Quinto grado, no, perché avevo qualche nozione, quindi sapevo che il quarto era la partenza, il quinto mi sembra già buono. Maurizio, grazie mille e buona arrampicata. A te. Ciao, grazie. Purtroppo non faccio in tempo a sentire Stefano perché devo chiudere, ma visto che abbiamo aperto con la lista di un'ascoltatrice, di Flora, voglio chiudere con la lista dei miei desideri. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Voi continuate a mandarmi le vostre liste dei desideri avendo tutto @radio24.it oppure sul profilo di Facebook. Io ringrazio Laura Faggini e Pietro Lacorte che oggi sono qui con me a differenza di altre. Trovate altre informazioni invece sul mio corso di tennis radio24.it oppure sul profilo Facebook Matteo Caccia. Vendo tutto, domani vendo una borsetta da donna. Voi invece non liberatevi dei vostri corsi, anzi finiteli, che alla fine concludere le cose è meglio che lasciarle a metà. Love, love, love, wherever you